691. Uova di neve. Latte 1 litro, zucchero grammi 150, uova numero 6, zucchero a velo quanto basta, odore di vaniglia. Mettete il latte al fuoco in una casseruola larga e, mentre questo scalda, battete con la frusta le chiare che avrete già separate dai torli. Ma gettate nelle medesime una pressa di sale, se è vero che serva a rafforzare la consistenza. Quando le chiare saranno ben montate, prendete il bossolo traforato ove ordinariamente si tiene lo zucchero a velo e, continuando sempre a batterle, gettatene tanto da renderle alquanto dolci. Grammi 20 o 30 di zucchero a velo potranno bastare, ma è meglio assaggiarle. Ciò fatto, prendete sulla fiocca con un cucchiaio da tavola e, dandole la forma approssimativa di un uovo, gettatela nel latte. Quando bolle, voltate queste cosiddette uova per cuocerle da tutte le parti e, quando le vedrete assodate, prendetele con la mestola forata e mettetele a sgrondare in un setaccio. Passate quindi quel latte e, quando sarà ghiaccio, fate col medesimo, coi rossi e con lo zucchero, una crema come quella del numero 685, dandole l'odore di vaniglia. Disponete in un vassoio le uova di neve in bella mostra, le une sulle altre, versateci sopra la crema e servitele fredde. Questa dose può bastare per 8 o 10 persone.